verso Tolosa. Quasi sera, guidando verso Tolosa, adesso, rallentando e scoccando l'indicatore di direzione verso il piazzale luccicante di un autogrill di confine, dal manto ghiaioso appena più folto e composto, dove avverto quello stesso cigolio di acqua rappresa nello sbattermi la portiera alle spalle, il vociare spettrale sbadigliante dei clienti che rallentano la discesa e affrontano di controcuore il calare della luce naturale del giorno, nell'ultimo sorso di viaggio. Alcuni a braccia conserte, scrollandosi le spalle per aggiustarsi meglio i giacconi sgualciti, qualcuno ad occhi semichiusi o appena spaventati per la distanza da casa, per il cluster di una gazza straniera che adesso si allontana in un filo calmo di cenere. Le cime degli articolati e i numeri già stranieri di telefono ingegnati sulle pareti sporche dei bagni rossi. Mi sciacquo il viso ad ampie manate, lo guardo sciupato nello specchio, ancora bagnato prima di asciugarlo. Lo lascio sgocciolare, mi fermo, rivedo la mia strada, con le mie scarpe strette e doloranti, il mio borsone da viaggio, il mio volante bianco e il mio motore, la mia fame, il mio primo incidente, la mia prima ragazza in vacanza, il mio primo viaggio pagato, il mio primo bacio, il mio primo morso, la mia laurea, la mia casa, la mia compagna, suo figlio Alberto, che non riuscivo nemmeno a guardare per bene dentro gli occhi, nemmeno a disegnarci insieme, neanche quando me lo chiedeva lui. Quando succedeva, inventavo sempre una scusa qualsiasi, senza guardarlo mai per bene nel viso. Ma lui ritornava lo stesso alla carica, proprio come un vecchio cowboy, nella polvere e nella stanchezza del suo attacco di quell'ora già tarda, con il foglio appena sgualcito che gli sfiorava una scarpa e gli occhi supplichevoli, sperando che gli facesse almeno i contorni di un albero o di una casa in bianco, quelli che poi avrebbe colorato da solo e con la testa piegata di lato, accanto alla nostra lampada da tavolo, il suo bacio di luce antica sul disegno, che poi avrebbe fatto vedere a Silvia, forse quella stessa sera, e che avrebbero appeso insieme agli altri sulla piccola lavagna magica della sua stanza, dove non entravo e forse non sarei entrato mai, nemmeno di ritorno da un viaggio e nemmeno in gran segreto, come fanno tutti i padri veri, o anche a volte peggiori patrigni, quando il silenzio elettrico del sonno li attira e li confonde. Nel fracasso dei giocattoli sparsi nel buio, quando scontrano le caviglie di una donna che si stema e che inciampa, e allora brillano di rosso da più lontano, come un ultimo richiamo meccanico all'inizio della notte. Quando Silvia era già addormentata, la luce verde mare sul suo comodino, l'unica scia tremante, il faro notturno verso la zona notte di una grande casa italiana, dove compitavo la mia selezione dei passi e dei baci da evitare. Ricercare quel nodo misterioso e allentato, tra tutti quelli allacciati a più sequenze nella mia vita, che in fondo non avevo scelto né mai cercato, ma che mi erano accaduti e capitati lo stesso. E avevano scelto le loro stesse redini alla tensione della mia gola chiusa nella corsa. Anche quelle di tutti gli altri eventi scorsoi, quanto inspiegabili, vissuti nella storia di ciascun istante passato, come nel tunnel fioco di un lungo canneto senza uscita. Annegando i miei cavalli in un lago amaro, la bocca che strepita e schiuma rotondi gomitoli folti di rospi. Ecco perché viaggiavo. Per celebrare in chilometri quella sconfitta e sfuggire ogni tanto da una vita che mi viveva dietro e alle spalle, a dispetto della mia volontà e consapevolezza di assecondarla o di accettarla in qualche modo come una nipote scema o una storta improvvisa alla caviglia, durante una passeggiata serale lungo il Pont Neuf. Cominciando così a sciogliermi in quel tratto cupo di galleria francese, come nel cunicolo di un cattivo sogno, dove cominciare a immaginare a secchiate fredde il terribile e l'inimmaginabile mai pensato e mai immaginato, senza una volontà o per l'inconsapevolezza torbida di un vizio. Pensare ancora, guidando verso sera, a dove fossero adesso e che cosa stessero mai facendo in quello stesso istante di viaggio, gli artigiani che modellano e collaudano le bare, In quale luogo così lontano sarebbe stata già pronta quella che mi sarebbe aspettata? Se estratta in piena notte da un deposito abusivo, o se fosse soltanto legno giovanissimo e non ancora lavorato. Se già esistesse, quello che l'avrebbe definita e rifinita con ogni cura, per contenermi nelle giuste misure. Il colore e la profondità dei suoi occhi e dei suoi riflessi privilegiati alla stessa luce artificiale del legno utilizzato e di quella mia ultima ora di luce naturale e lampadina fioca di sagrestia. Il calore e la forma delle mani della moglie. Se quando escono insieme lei gli abbandona la testa sulla spalla, in che modo lo fa? Se con la stessa stanchezza e sfinimento della mia compagna. E se si abbracciano più forte, più svogliati, quando vanno di sabato per negozi, e se lui le stringe un solo fianco e abbassa subito il palmo verso destra o ancora più in basso. E se camminano invece distanti, come due vecchi amici. E ancora. Se un giorno potessimo incrociarci lungo la stessa strada e le nostre donne guardarsi almeno per un attimo, entrambe fanatiche fumatrici di estere al mistero, anche loro negli occhi lucidi e ben truccati nel freddo, guardarsi per un attimo le scarpe, le gambe simili appena scomparse nei cappotti e svanendo lo sguardo nei grandi cappelli neri d'epoca, che le nascondono lo stesso angolo alto del viso, lo stesso eventuale ciglio nell'attimo, e le mani negli stessi guanti, le luci basse della stessa sera, nella stessa pioggia e nello stesso punto di tardo autunno, forse degli stessi regali, e nello stesso grande o piccolo magazzino di provincia, con il commesso raffreddato e con gli occhi confusi e commossi per la loro stessa imbarazzante bellezza difficile. O se invece sarà un demonico solitario, uno che rinuncia a conoscere l'altro e che non esce mai quando non lavora, e che intanto mi sta già destinando piano, con il tornio del suo grosso polso scoperto, e a mia insaputa. E che cosa avrà mangiato ieri? E che cosa mangerà oggi? A quanta distanza dal mio prossimo pasto mi scavalcherà? E se non ci fossimo già incrociati e fosse guardati negli occhi per un solo attimo, e senza saperlo, ma rimanendo a pensarci più avanti, e poi fermarsi, mentre ci si pensa, come da ragazzi, sospesi in uno strano innamoramento nebbioso, con una penna ferma e già masticata nella bocca, e quando il viso già appannato è passato, ma rimane negli occhi come un topo bianco nell'acqua. Se quello sguardo potesse coniugare una direzione ancora più precisa e definibile, se fosse già stabilita a suo vantaggio assoluto sul mio tempo desertico, in un luogo irreale, quanto possibile e già ben ventilato, dove potrebbero già intravedersi testimoni oculari e nascosti della mia romantica o anonima fine. A quest'ora staranno espletando già tutto il loro ruolo implacabile e professionale. E forse la dottoressa che mi sentirà inutilmente il polso per l'ultima volta. Adesso starà guardando un film di spionaggio e avrà messo su gli occhiali celesti più leggeri per la tele. O forse sarà ancora studiando per la laurea e sarà ancora così giovane e molto attraente. Sarà lavando i vetri a casa di sua madre e mentre li lava, ruotando di polso con lo straccio, si ferma e si asciuga il sudore e si guarda una coscia dolorante per il suo cattivo passo mattutino di jogging, scoprendosela tutta alla luce di un neon che le trema addosso, attenta allo smagliarsi dei suoi calze nuove nel viola elettrico, coprendosi male per la fretta quel punto terso di proibito e limpido sciarcoalo, e guardando già allora dal suo braccio nudo, nello splendore della prima sera, perché c'è qualcuno che se n'è accorto, dalla finestra di fronte, nell'attimo esatto in cui starò forse guardando la mia stessa ora e la mia sera, dal mio orologio fermo. O sarò proprio io, quello della finestra di fronte, che le guarda quella sola coscia ancora visibile, impetuosa dall'ombra, nel delirio funesto di un lanciatore vizioso di spilli, per raggiungere la distanza. In quel punto preciso, con il colpo maestro e soffiato di un fuoriclasse, prima che si oscuri il cielo, per farle alzare il viso e farle scivolare giù gli occhiali per il dolore e per il sobbalzo, eccitato dalla mia abile e sporca trafittura da riformatori. E chissà quanto le disto ancora, e se le scolgo il livido del pizzico violento subito della sera prima, che anche quella sera dovrà uscirci a cena, metterà qualcosa di più corto ancora. Che in macchina sarà seduta davanti e ancora da sola. E dovrà scegliere le scarpe giuste, forse stivaletti neri, dai lacci fittissimi, e incrociati in quasi 100 occhielli punitivi per incupire di un castigo antico il fumo dei suoi passi. La sua figura già torva e slanciata, trattenuta alla vita in un busto cremisi e tragico di un altro tempo, una tinta adeguata e moderna di collana, una che stacchi meglio sull'argento crema della sua carne medica nel buio, per centrare il gelo violento dei suoi occhi cavi dallo sguardo ansioso e cattivo, e poi sedarlo. E quanti figuranti, già vivi e inconsapevoli, saranno già in azione, per destinarsi a quel mio nuovo punto di unica stenosi e di non ritorno, che forse mi condiziona già da adesso, nel gran mistero e ministro di quel casting funebre, fatto di pochi grandi e illustri eletti, per intrecciarsi alla mia stretta finale di fuga da fantino di gran classe, nello stesso grande spavento, quello che di solito non si dimentica mai più, in un definitivo imprevisto violento del genere, e sentirmi già da ora colpevole e responsabile del loro piatto capovolto a tavola, di fronte al loro posto vuoto, così come il mio posto sarà vuoto alla stessa ora, nella mia casa in trambusto, completamente deserta, come il mio pigiama già stirato, o le mie scarpe, e le mie bretelle nere, sulla spalliera di una sedia moderna, così come le avrò lasciate, in una penombra di mezza serranda, appena prima di uscire. Era tutto quello che pensavo e che sentivo, guidandoli verso il primo respiro serale di Francia. Quella settimana mi era toccata una jazz band. Tim che ride con il suo bassista, ma molti americani chiamano bassisti anche contrabbassisti. Suona molto più pratico, forse anche più economico e raffinato. Per gli addetti jazzisti agli assoli lavori, ancora Tim. Adesso ridendo di meno e parlandomi nell'abbandono confidente di un luogo comune di origine. Non sempre i luoghi di origine corrispondono a quelli di nascita o di morte. Credo quasi mai. E fingendo di placare l'inquietudine della sera calante, nell'ultimo tratto, illuminando a petrolio il mio carcere mobile su ruote, rallentando di colpo in uno sbadiglio, dentro un ventaglio opaco di nuovi luoghi e diversi, che mi riconsegnassero verso una tregua possibile, come la morte delle foglie ancora rosse sulle grandi strade baciate dalle luci orientali all'imbrunire, o che svelassero il luccichio fiammingo nella droga della candela notturna. E per ogni nuovo compagno di viaggio, la scommessa di un confronto già perduto in partenza, dove di me non brillava altro se non la mia responsabilità delle loro vite giovanissime e per le diverse ore di guida. A volte potrebbe diventare anche molto eccitante, e per quanto fossi chiuso e complesso nelle relazioni private, e per quanto non tollerassi parlarne mai con nessuno, se non con il mio tutore automatico e privato, al quale chiedevo balsami e soluzioni immediate, come carezze di una cagna calda che scodinzola nella placentra tra le lenzuola di vecchi hotel diroccati. Ogni luogo nuovo comportava quella sorta di assenza o di annegamento nel viso nebbioso delle nevi azzurrate di confine e di arresto improvviso del mio solito tempo sospeso di marcia alla dogana, o di inversione sacrilega alle regole della predestinazione, a quelle che mi ossessionavano di più, diventando l'occhiale a specchio sul mio reale ancora clandestino, cercando di fissare tutto quello che non riuscivo a capire della mia vita senza ruote, soltanto durante le ore di guida spettrali dei percorsi più lunghi, rivisitando stralci di vecchi testi masticati male, analisi della felicità di Vladislav Tartakiewicz, che era quello che masticavo più di altri in quel periodo, la vecchia raccolta in lingua originale delle poesie di André Chenier, ma che non mi portavano mai dietro nei miei viaggi, e che qualche volta la vista ispirata di un paesaggio o di una nevicata mi risumavano con la tenerezza della sorpresa di gruppo, anche nelle mie brevi pause dai viaggi italiani, nella cucina chiusa delle mie fervide insonnie, o in attesa di attaccare un viaggio ancora più lungo, quando il sonno era ormai troppo debole per ingoiarmi vivo, e dove avrei voluto trovare quella soluzione insondabile e perfetta, che mi avrebbe dato almeno in apparenza quel certo armonico dominio sulla musica muta e tombale della mia vita. Questa qui invece era di Tim, il ragazzo italo-americano, che era anche il leader del gruppo con cui viaggiavo quell'anno, e che mi parlava dei suoi affari musicali come se fossero affari di cuore. Me ne parlava come si parla a un padre o a un grande amico ritrovato. Non capivo ancora cosa ci trovasse di così bello nei miei sgarbati silenzi, così ostinati, e la mia svogliatezza nell'ascolto. E quando io mi distraevo, allora ecco che lui rincalzava e mi diceva che tutto quello che ci accadeva era come se un po' risuonasse e balzasse dentro e fuori le nostre carcasse. Ogni cassa umana ha una sua acustica e una sua storia di suoni, che senza i suoni non si esiste e non si respira. E intanto sferrava una pugnalata di clacson verso l'imbocco della galleria, quella vera e reale, alla virata di una Renault azzurro mare. E quello che continuava ancora, appena dopo la pausa per la stoccata secca del freno, e mentre gli altri del gruppo dormivano, guardavano fuori, i visi spenti e stregati, dalla velocità delle luci arancioni, che a quell'ora li trasfiguravano e li rigavano tutti di sfregi sottili. Anche il pallore di Tim ricordava l'arancio notte napoletano, tangenziale. Mi diceva Tim che andava letto tutto in quella chiave lì. Non soltanto il loro mondo, ma anche quello degli altri. Nella temperatura dei suoni, delle risonanze o dei silenzi dopo il colpo, qualsiasi esperienza avrà una sua memoria sonora e profonda, che prima o poi riprenderà a vibrare o a incantarci e a incatenarci di nuovo in qualche altro punto più lontano. A volte le citava degli strani passaggi, che forse aveva già sentito da qualche altra parte, o inventati, e poi trascritti di suo pugno tra le pause dell'esecuzione. Le sere hanno una voce e la nocciola amara, di un altro suono, che le notti più non sanno. Il serale, il cupo dolce interstizio e interludio alla nobile opera notturna, intatta, il più breve ma più sonoro interludio al silenzio padre, che ci condanna. Quando la temperatura più bassa di Cile ci sforma il cuore e ci inarca lo sterno ai soli seni lunari. Prima che tutto si chiuda, ci rinchiuda nella mungitura calma di un altro tuono. E io a volte lo perdevo e speravo che si stancasse prima di spazientirmi e di umiliarlo con una cattiva risposta, anche se mi dispiaceva essere troppo brusco con lui, che in fondo non lo meritava. E forse diceva cose comunque interessanti, o perché così diverse da quelle che di solito mi toccava sentire durante i miei viaggi con le scuole. Ed era proprio per quella loro novità che quelle sue parole mi attraevano e mi spaventavano nello stesso tempo. Tim suonava la tromba da diversi anni e mi parlava della sua strana vita sonora attraverso quel suo sognare e sgorgare di suoni. Il suono va prima sognato e avvertito brillare dalla sua cruna, e solo allora si può creare dal vero. E solo questo è il segreto. Io sbadigliando assecondavo, senza capire dove diavolo volesse mai arrivare e perché ci tenesse così tanto a parlare proprio con me, con l'autista dell'autobus, con il mezzo e non con il fine. O che forse gli ricordavo una figura importante, un padre schiantato all'improvviso per qualche accidente o in uno sbocco di sangue a tavola o in macchina, quando forse Tim era solo un bambino o anche sul lavoro e aveva dei maledetti vuoti da colmare e i denti bianchi e intatti di un ragazzo di colore, con la stupida nevrosi di parlare ancora ai conducenti. Un tipo così, in effetti, non l'avevo mai incontrato, per tanti chilometri guidati o suonati, ma preferivo non approfondire mai troppo. E poi c'erano quei dannati limiti elettronici della velocità di cattivo pensiero, e mi toccava controllare e ammutolirmi, così mi costringeva ancora a resistergli, per sfuggire ad altri agguati, forse peggiori. A volte lo facevo con minore fatica, e non so quanto ancora e perché. Forse per il tono intenso e doloroso della sua voce, o per il suo entusiasmo selvatico, per tutto quello che vedeva o indovinava del viaggio e del mio silenzio profondo e parallelo, che si trasformava in un altro luogo, che a me ancora sfuggiva e che Tim voleva a tutti i costi comunicarmi. In fondo il mio adattamento era una forza spiritica, titanica ed esterna, alla mia volontà. come se i suoi discorsi fossero già corredati di un kit di emergenza predisposto per poterli assorbire senza effetti collaterali gravi, compresa la pillola della mia strana pazienza e buona rassegnazione professionale. Pensandoci su, ci sorridevo appena. E Tim, che pareva molto in gamba, se ne accorgeva subito e allora incalzava ancora in quel mio possibile varco, come se avessi ricevuto un nuovo segnale, un piccolo premio di consolazione, da poter scartare prima dell'arrivo. A volte mi sembrava di murarmi nei tracciati di una filosofia selvatica e di strada, che non avrebbe retto a lungo alle curve dei miei viaggi e ai pasti freddi delle tavole calde. Ma in quei pochi giorni dovevo organizzare semplicemente lo scorrere di quegli eventi nuovi, separati nella stessa uniformità di tutti gli altri eventi vissuti e incompresi nel calcolo del loro bilancio d'insieme, come sfere di biliardo colorate e lucenti che mi incantavano nella loro perversa rotazione e trazione sul panno rosso. L'autista disertore e disertato, con il gomito fermo sul taglio ventoso del finestrino e stringendo gli occhi nel buio per scorgere meglio la destinazione fosforescente di un segnale straniero e difficile da decifrare, stavolta diretto in una nuova e vellutata Toulouse, rivenuta sempre più giovane, in maschera e in abito lungo da sera, dalle notti orientali di matite per gli occhi e dai fantasmi dei grandi ombrelli grigi tenuti dalle braccia lunghe e bagnate, i visi lunghi e monastici nascosti nei cappelli da uomo, nei cappotti massicci dai bavagli alti o in qualche foto sbiadita e lontana di un altro tempo, tra nuvoli di spie attendenti di strani segreti sotto portoni antichi e blindati, in attesa di funeste e sfuggenti apparizioni di donne in ritardo verso le luci della Place du Capitole. Ma almeno nella zona del nostro hotel percepivo un senso di marcia e di storia abissale e privata, che a volte si mischiava con la mia e mi spaventava nella sua sorda consonanza, apparendomi umida e usata come un panno rappreso di aceto lacrimale e di acqua di colonia sullo stesso calco del mio viso. Sarebbero rimasti per 6 giorni nello stesso teatro. Parlo dei ragazzi della band. Io in teatro speravo di non ficcarci neppure la punta del naso, anche perché il teatro era piuttosto vicino all'albergo e così, una volta sistemati a dovere gli strumenti, sarei diventato un perfetto turista irrequieto, infelice, anche se ben pagato. Avvicinandomi sempre di più a quella nuova Tolosa, che non avevo mai visto così oscillante e fobica come quell'anno, dove avrei raccolto reperti e altri indizi su altri luoghi diversi, meno noti o più intimi. A volte è proprio così che succede. È quasi sempre un gioco di frecce luminose, quando le scoperte si fanno soltanto a grandi distanze. Relazioni, esperienze, ritorsioni, affezioni, afflizioni da sensi di colpa, torti, contatti proibiti e mancati, rimorsi e rimpianti di delitti sfiorati. Avendo bisogno di una profonda cateratta di incubazione per poi rifiorire in tempi e luoghi indecifrabili e imprevisti, dove avrebbero ritrovato un loro spazio fluido di respiro, forse come propulsore dal proprio funicolo di buonseme alle schiene nude e asciutte delle commesse francesi, quelle più disinibite e operose, quando correggono l'assetto inclinato di un berret sulla testa di un manichino anonimo e senza occhi, assestandogli un nuovo giro di sciarpa, come un cappio riflesso al mio collo. Ritornando poi in quel fermento di voci e di luci basse all'interno del bus, quando cominciava a calare la notte, e l'odore ferroso del loro sonno si faceva più fisico e violento. A volte il respiro dei ragazzi sembrava continuare e fremere nello stesso giro rauco e monotono del motore, come uno stacco di fiato gelido americano alla ventola di raffreddamento. Le loro teste schiacciate sul vetro, le tempie oscillanti a tempo. Adesso anche quella di Tim, che è crollato all'improvviso anche lui. E tutti nelle mie mani calde di forno, sul volante ondulato di piccole gobbe bianchiccio, come quelle di una volta. Quando nella maestà della mia guida perfetta, quei ragazzi diventavano le mie nuove probabili vittime, esattamente come lo ero io nelle loro, nel mantello della stessa tenebra estera che ci avvolgeva. Per ogni mio viaggio, riattivavo percorsi minuti di memoria e astrazioni, forse mirate a geografie lagunari e oscure, che si rianimavano per ogni piccola minuta consonanza, e a volte bastava un soffio, come quello stesso spillo soffiato a distanza sulla coscia calda di una donna, dal cattivo ragazzo del balcone di fronte. Il taglio di una tegola, un'ora del pomeriggio più speziata e forse già vissuta altrove, a confermare quella stessa disperata impotenza che provavo di fronte allo scorrere e allo sciogliersi di quello strano nastro scuro per capelli. Fino alla morte silenziosa del fiocco verso nuovi disegni di tempo inscrutabili. Qualche volta il profilo grigio del filo spinato di una recinzione che per uno scherzo o piccolo sadismo di vento avrebbe potuto incepparsi di colpo alla mia gola durante la guida e non lasciarmi più il tempo. Sarà stata colpa di quel mio carattere complesso e non troppo comunicativo, ma con quei ragazzi della band non mi era scattata ancora quella molla naturale di intesa, quella molla interna che molte volte ti rende impossibile distoglierti dai loro programmi dolci di volo, un po' come succede con le gite delle scuole o con i migliori gruppi sportivi in trasferta. Una questione di pelle, di indole, al momento. Non forzare nessun caso, credevo. In fondo era un piccolo gruppo sconosciuto di jazzisti, capitanati da quel team, quel bel tipino, sarebbe così loquace, preparato, affettuoso come un cane quando ti avvicini alla porta per farlo uscire. Così troppo affettuoso da ispirarmi l'istinto di un calcio. I ragazzi ritornavano in Francia per la seconda volta, dopo un'interessante esperienza dello scorso anno in un teatro d'Avignone, con una band molto più grossa, con Tim seconda tromba. Mentre adesso avevo avuto l'opportunità di suonare da solista per uno spettacolo di teatro sperimentale, con una compagnia di Düsseldorf e un gruppo di giovani mimi. Quel copione richiedeva strumentisti istrionici e molto ingegnosi e raffinati sul palco, creativi e poco scolastici, che avrebbero interagito soprattutto attraverso i suoi lunghi e sgolati assoli moderni nel buio, a innescare con le dinamiche dell'azione teatrale e per tutti e tre gli atti. Per loro, mi raccontava Tim, sarebbe stata una buona opportunità, quella di rinsaldare il gruppo con vecchi standard e qualche brano originale composto da Tim, e anche di allargare strategicamente la cerchia dei contatti e il piccolo fondo cassa, dove gravitavano le loro prime o ultime fortune. O di scoparsi di Spalla e di Frodo, ma questo lo pensavo soltanto io. Qualche palpitante ballerina tedesca, dai fianchi mollicci e abbondanti, da prendere in braccio con fatica e così farla ridere, con il boccone ancora in bocca, durante i tempi solenni dello strucco, davanti all'ovale degli specchi appannati dal fumo, i camerini francesi, come sepolcri egizi e senza aria, le ragazze più magre, nel silenzio delle lacrime noir di mascara, ingoiate da una grande mano aperta sulla faccia. Erano così giovani e fecondi quei ragazzi, e di jazz ne capivano già parecchio, e forse anche di donne. Credo che le due cose dovessero combaciare, anche se Tim di ragazze invece non ne parlava mai. Era un argomento che non toccava. I ragazzi della band improvvisavano già tutti, ma io non sapevo ancora cosa diamine fosse quell'improvvisazione, prima che in una sera di solitudine me l'avesse spiegato proprio Tim. E con tanta meticolosa tenerezza di particolari e di esempi in musica e in vita, a dispetto della mia indifferenza e distrazione, a questo grande entusiasmo, tenace, entusiasmo di coinvolgermi e di tirarmi dentro, come se fossi uno di loro. Molte volte con lui mi chiudevo a riccio. Non mi piacevano per niente i tipi così, quelli troppo affettuosi, e senza un mio slancio precedente d'intesa. La sentivo come un'invadenza, una molestia. In effetti ero lì per lavorare, non per fare conversazione, così mi ripetevo di continuo, dalle prime volte. La sua attenzione mi suonava come l'incisione a fuoco di un debito, da espiare, e anche il vociare assonnato di tutti gli altri. Quando durante il viaggio dall'Italia mi imboccavano a turno con il cucchiaio caldo dei loro grandi assoli sciroppati. Ciascuno il suo tema, a voce rauca, e poi fumando come dannati. Il bassista, il più incazzato di tutti, che rovesciava rutti grossi come noci californiane. Sarà che non sapevo suonare nessuno strumento, e per quello che non mi andava di dargli la soddisfazione di un solo applauso o cenno di consenso. Forse provavo addirittura una certa invidia, anche se erano tutti dei gran bravi ragazzi, e nessuno di loro mi sembrava presuntuoso. In fondo erano anche simpatici, a modo loro, e soprattutto Tim, che insisteva per coinvolgermi almeno in una delle loro prossime sere, una qualsiasi, che avrei scelto io, mi diceva. Era sicuro che quello spettacolo mi sarebbe piaciuto. Io non riuscivo a capire che cosa lo rendesse così sicuro, ma lui mi diceva di venire e di fidarsi. Io fingevo di accettare. Poi cercavo di cambiare argomento quando sapevo che non sarei mai andato a sentirlo, in nessuna sera. Erano tutti ancora troppo distanti da me per condividere il mio strano demonico tempo sul suolo francese, oltre a quello tecnico e ufficiale su ruote. Quello era un privilegio che non concedevo a tutti, solo a pochissimi, quasi a nessuno. Cercavo unicamente carne femminile trepidante, purtroppo era tutto lì il mio jazz. Forse in buona sintonia con le origini e le radici oscure di quel nome così tagliente e proibito, quando sgusciava di soffio in soffio dalle tende dannate dei bordelli americani, come profumo extravie rovesciato, il tappo che rotola dall'ampolla sui tappeti rossi dei piani più alti, e raggiunge le piccole stanze evaporate nel fumo e negli amplessi mulatti. Anche questo me lo narrò Tim lungo il tratto di confine con la Francia. Altrimenti non avrei saputo mai. Mi era bastato il percorso di andata per dedicarmi con aria passiva ai loro strani sogni e resoconti di fantasmi armonici. Mi era bastata solo l'andata di quel viaggio perché i loro sogni, così possibili, drogassero di un altro tempo il mio vuoto di volo, ancora così basso e così stordito, senza orizzonti né stormi, a cui compattarmi o distanziarmi. In nessuna possibile finzione teatrale. La nostalgia ruvida e puntuale di casa, quando si arrivava così tardi in hotel, o di un'altra vita in un altro luogo, diverso e lontano, forse mai visto, e meno crudele e insensibile rispetto a quella che mi nutrivo e mi ferivo dentro, a volte con molta fatica, la notte dell'arrivo, nella mia stanza, prendendo il pigiama dal borsone rosso. L'odore del suo bucato, delle sue mani precise e operose sulla mia lana colorata, nella mia vita silenziosa. Per ogni viaggio lo stesso profumo e strano dolore. Durava solo pochi istanti, poi passava. Ma adesso era troppo tardi per chiamarla. L'avrei solo inutilmente spaventata. Capitolo secondo. L'arrivo. Avrei avuto 6 giorni pieni di assoluta sublime solitudine per godermi la misteriosa sintonia con il primo vespro a Tolosa. Avrei accompagnato in teatro solo quando la pioggia sarebbe stata troppo forte. Gli strumenti più grandi e ingombranti li avevamo già caricati e poi avevamo tutti i telefoni. E in ogni caso dalle 10 del mattino era un cane sciolto. Sia da loro che dal loro agente, Rod, un inglese gelido e quasi sempre ubriaco, trapiantato a Firenze per lavorare con queste nuove leve ancora impacciate e imprevedibili. La cosa più importante è che lasciassi acceso il mio telefono. Questo me lo aveva detto proprio Rod, come unica condizione necessaria e sacrale. D'altro canto dovevano pur giustificare la mia presenza sul territorio, senza farsi necessariamente trasportare da un punto all'altro della città. Anche per una questione pratica, e credo che allora rimanesse una questione psicologica, quella stessa del telefono acceso. Una presenza neutrale, ma protettiva, di poche rassicuranti parole sulle previsioni del tempo, sigarette rubate, parole inutili e smorzate nell'attesa. Motorizzato o meno, la mia presenza formale poteva ritornare sempre utile per qualsiasi evenienza, una confidenza, uno sfogo. Ma particolari evenienze da parte loro non ve ne furono. L'albergo che Rod aveva scelto per il gruppo era parecchio accogliente e di buon livello. Anche il personale, i clienti e la televisione era sempre ricca di possibilità per impiegare o brucare alla meglio il mio tempo da perdere, o a volte da risparmiare o da guadagnare. E poi si mangiava e si beveva molto bene. Ma io preferivo rimanere in hotel, solo per la cena. A pranzo preferivo non avere vincolo di sorta. Ormai ne avevo girati diversi di hotel, ma lì era tutto molto raffinato e troppo silenzioso. L'odore di pulito delle stanze, la qualità degli asciugamani, dei piccoli saponi, le forme e i colori diversi delle ceneriere, gli occhi serissimi e attenti del personale del mio piano, la forma delle bocche che si allungavano all'infinito, i sorrisi, i profumi di pensieri stranieri, il velo cinereo di un collan posato sulla spalliera di una sedia, da una porta aperta, uno strano effetto di nebbia soffiata e di paura. L'atmosfera mi piaceva e mi disturbava nello stesso tempo. Mi bastarono le prime ore lì dentro per dimenticare lo stress di tutto il percorso del viaggio di andata e riprendermi dalle loro mimiche ritmiche e vocali che mi avevano assediato fino alla nausea. La loro musica che suonava ancora troppo difficile per i miei gusti. Troppa elaborazione, troppo amore per qualcosa di così evanescente e impalpabile. Quando parlavano tra di loro degli accordi, sembrava tutto troppo matematico, macchinoso, troppe regole armoniche, come senza la forma umana di un cuore. Anche se dentro la tromba di Tim c'era forse il più bel cuore di jazz che avessi mai incontrato in tutta la mia vita. Quella di Tolosa sarebbe stata una delle ultime trasferte all'estero per quell'anno. Poi, una volta in Italia, avrei accompagnato un gruppetto religioso in diverse mete ridenti nel centro-sud, qualche santuario, un ritiro spirituale a Gubbio, ma tutto questo sarebbe avvenuto verso febbraio, c'era ancora tempo. Intanto era già tutto fissato. Poi verso marzo si ripartiva con le scuole verso i laghi. Avrei potuto sapere, a distanza di oltre 5 mesi, ancora oltre, in quale sperduto paesino dello stivale o dell'Europa mi sarei ritrovato in un dato giorno. Un lavoro interessante, abbastanza vario, soprattutto quando i clienti erano di poche pretese e si fermavano sul posto, adattandosi ai miei bruschi silenzi e moderatamente a lungo in un luogo particolare e invitante, proprio come la Tolosa umida e spiritica di quell'anno. Ma la cosa più interessante che esploravo e rielaboravo in un luogo di approdo erano gli incontri o gli scontri, la possibilità di provocarli con una rete sottile di molestie o di insidie continuate. I luoghi senza incontri umani sarebbero diventati fossili di elementi opachi e neutrali. Anche i più belli sarebbero sfioriti in luce e in profondità. C'era sempre bisogno di un impulso dinamico e romantico che solo gli esseri umani sanno e possono irradiare a certi luoghi e imprimerli così dei loro segreti di sangue e abitarli o disabitarli, anche se spesso si pensa e si ragiona al contrario. In ogni nuovo luogo masticare un certo confronto, un assedio, un delitto, un amore finito e proibito, un furto di chiavi o di cuori, un appresso violento nella piena luce del giorno e una strana nuova speranza ancora sperduta e mal riposta. Era forse quel fattore preponderante della mia ricerca in cui mi imbattevo durante le mie trasferte, ogni piccoli viziosi ritocchi davanti allo specchio dell'hotel, prima di scendere verso passeggiate sospette e anonime, per chi ancora senza una meta precisa e articolata nella più totale solitudine. Specchiandomi il mio sguardo diventava stupido. Non penso che possa esistere al mondo uno sguardo in assoluto più stupido e profondamente più svuotato di chi si guarda allo specchio prima di scendere verso qualsiasi luogo al mondo sia diretto e verso qualsiasi incontro, scontro o non incontro. Queste cose non sempre si pensano e si prevedono, ma basta lo specchiarsi a giustificare qualsiasi insano evento successivo. Che avvenga in un hotel, in un appartamento, nei bagni di una stazione, non credo che cambi molto. Quell'ispezione fugace, di controllo e di estrema cura nelle virate di occhiate rapide, ma precise, fino agli angoli più cupi del volto e poi degli abiti, frazione di tessuti, di piccoli nylon in vibrazione, dai punti più insospettabili e inesplorati, fino alla rifrazione più insondabile, o quella piccola frizione delle mimiche facciali che lo ornano, tratti alternati, in una sequenza di radiose varianti complesse e infinite, nella loro possibilità di modifica e di penetrazione, denotando il più abissale e incolmabile vuoto di deficienza che abbia mai raccolto e intuito da ogni forma vivente e animata, nell'esercizio meccanico dello sguardo, o nei processi naturali di cognizione passiva all'immagine propria. Quando rimani fisso e in agguato, anche oltre quella breve operazione simultanea di controllo privato, per abitarci ancora quando si ritorna fuori e si espone all'impatto e alla corrida di nuovi occhi, dal fondo delle orbite, agli incavi degli inguini più segreti e schiumanti del corpo di un altro, che si guardi un paesaggio, una ragazza che corre con un cane o con un fucile carico, a volte non cambia, e ce ne si accorge sempre in ritardo, forse mai, e non ci si dimentica mai di un viso specchiato. Lo si filtra sempre in base all'impaccio osservante del proprio sguardo, appena dissepolto dall'anestesia idiota dello specchio a muro, appena passato in rivista e pronto per essere ricambiato dalla stessa grassa, sorda stupidità di attenzione, condensata e stagnante, quello sguardo viscoso ma preciso, che non vede, non pensa, non vive, ma controlla. E a volte rimane ancora calcolato e misurato nel viso, per la macchina operosa del solo controllo ossessivo, anche quando ormai non ci si specchia più, perpetuando all'infinito quei tratti storici e statici di quella buona maschera tragica di sola maniera, che cerca sempre di perfezionarsi verso altri sfondi e fondi scomposti, che non vedono e che mai vedranno. Esattamente gli stessi, specchiati verso altri specchi deformi, condensati e stagnanti, per mostrarsi al mondo parallelo e riflesso, nel loro nitore di un assetto incontaminato, sognato senza ombre, senza sangue, senza pieghe o rughe, ma come nel marmo ghiaccio di una scultura bianchissima e oscurante. L'hotel, già luccicante di pioggia e di luci serali, fin dal mattino presto. Il tutto cominciava una mattinata dalle tinte così serali. Credo fosse quella del secondo giorno, la prima di un viaggio. Ero scivolato in hall, con una rivista di cavalli da corsa piegata in un braccio. Ero appena ritornato dal teatro. Avevo fatto un po' di compagnia a piedi a Tim, che mi aveva incrociato a colazione chiedendomi di accompagnarlo. Si trattava di poco. Mi alzai e gli tenni il passo, senza neanche rispondergli. Mi sembrava indelicato inventare ancora scuse per una manciata così scarsa di minuti. Gli altri componenti della band, che a stento mi salutarono, camminavano ciondolanti di sonno davanti a noi due e poi si diradavano. Tim mi era sempre vicino e mi parlava di cose nuove e assurde quanto oscure, come quello strano cielo ibrido, cose che in tanti anni di viaggi non avevo mai sentito, e soprattutto dalla bocca di un ragazzo. Cose strane, come quelle che mi aveva detto durante il viaggio, che adesso riattaccava, con gli occhi molto assonnati, il passo nervoso e irregolare nelle pozzanghere francesi. Mi confidava della sua paura di suonare, della ricerca di Dio, o di qualsiasi dio o divinità che gli venisse in soccorso e lo tirasse fuori dalle sabbie mobili di alcune paure o piccole ansie e del poco fiato, sperando che qualche forza superiore lo aiutasse in qualche modo a recuperarlo, perché ogni sera, da più di 2 mesi, quel fiato diminuiva sempre di più, anche in prova. Anche un dio con la minuscola, diceva, gli sarebbe andato bene lo stesso. La tromba gli serviva solo a quello, a cercare qualcosa di nuovo e di altro dal solito, con il suo fiato. La musica in fondo non era mai la sua. I suoni soffiati e sofferti esistevano ancora prima del suo soffio. Tim Tim doveva solo trovare la giusta pressione di labbra per certe frequenze pensate e ancora prima avvertite vibrare in profondità e poi sintonizzarsi per tempo e attaccare la nota. Alcune frequenze gli scivolavano limpide e indisturbate, quasi a rasserenarlo, al loro primo affiorare. In altri casi gli davano al contrario agitazione, come se avvenisse qualche misteriosa interferenza che ne intralciasse il regolare flusso di emissione. Ma il gioco scorrevole e complesso della sua ricerca, quella invece era una forma attiva del tutto personale, che partiva soltanto da lui. E senza la sua tromba, mi diceva Tim, avrebbe perso quella grande possibilità di dare luce e poi voce, non solo al suo gruppo o al suo spettacolo, ma a tutta la sua vita. Con ogni buon suono si illuminava qualcosa nel suo passato, nella sua stanza, nella sua casa, nei suoi amici, nella sua strada, nella sua bici. Avveniva una piccola, formidabile mutazione, molto più lontana e profonda di quella che poteva avvertirsi sul palco e lungo le file assonnate delle poltrone di velluto del teatro. Al contrario, una nota cattiva, emessa con un cattivo soffio e senza una percezione precedente e vibrante, avrebbe spento qualche stanza, qualche amico lontano, qualche punto della sua strada, qualche pezzo della sua bici da corsa. L'avrebbe reso muto e anche sordo a tutto il resto dei suoni che il suo suonare bene gli avrebbe consentito di avvertire, qualcosa di lontano e di molto intenso, continuava a ripetermi. Quando ormai il teatro ci appariva a breve distanza, i suoi passi rallentavano e si facevano più pesanti. Io non capivo come diavolo dare un senso a quella sua comparsa inspiegabile e a volte così asfissiante. Quando poi Tim smetteva e guardava a terra, camminando, gli occhi riflessi nell'umidità odorosa della strada, gli spartiti ben stretti sotto il braccio, la tromba ben calda nella sua custodia nera. Forse aspettandosi una mia risposta, anche brusca, una risposta qualsiasi, che intanto non arrivava mai, perché io ero già altrove, lontano dalla sua tromba, dal suo teatro, dalla sua band, dal loro agente e da tutta la sua vita. Lontano dalla sua ricerca balorda e dalla sua comparsa al mattino, dopo colazione, in quel giorno così grigio. Lo avvertivo molto opprimente, non c'era spazio per filosofie sonore e complicazioni di quel genere. Forse il ragazzo doveva fottere. La situazione poteva ridursi a qualcosa di molto più semplice e immediato. Erano quelli i miei parametri e le mie vedute. Non potevo farci niente. Era la mia natura. Non mi restava altro che la finzione e l'inganno, il fare finta di essere un suo nuovo inutile amico, giusto per non deluderlo. E a quell'ora del mattino poi dovevo concentrarmi, per cingere di assedio tutto l'assediabile, senza ulteriori ostacoli, e cercando di introdurmi nel viscido ancora inesplorato di quel luogo, nelle sue mucose nere e verdastre di mosche. Tutto questo non potevo farlo se non attraverso i passi morbidi dei primi clienti più isolati e appetibili, che passavano sui tappeti dell'albergo, una volta rientrato. Non mi restava che organizzare la struttura del mio primo agguato insonorizzato, senza altri impiastri tra i piedi. Tim mi aveva lasciato con un sorriso teso e spezzato sulla faccia. Era sull'uscio dell'ingresso artisti e tecnici. Forse era rimasto deluso da quanto avessi sfacciatamente ignorato i suoi preziosi e delicati affari privati musicali. Quelli che aveva scelto di confidarmi e che forse non avrebbe nemmeno detto a nessuno dei suoi strani colleghi. Lungo il cammino verso il teatro, mi aveva anche detto che io gli infondevo un certo coraggio e che parlando con me si sentiva più sicuro e più sereno rispetto a quando parlava con tutti gli altri, e io ci ridevo sopra perché la sentivo una cosa così assurda, il fatto che un tipo come me potesse dare del coraggio proprio a lui. E che mai nessuno mi aveva mai detto una cosa del genere, forse l'esatto contrario. Sarebbe stato molto più probabile suscitare insicurezza e spavento, ne ero quasi certo. O forse quel ragazzo mi stava prendendo in giro, o era soltanto uno fuori di testa. Era possibile che quel bel tipo di Tim fosse un simbolo contrario e avvertisse tutto capovolto, come riflesso nello specchio del cucchiaio, e così vedeva e sentiva anche me. Oltre agli accidenti della sua vita e del suo fiato, com'era assurdo tutto quello, mi dicevo. Com'era assurdo quel team, con il suo fiato corto e la sua solitudine stupida e indigesta, le luci così basse e grigie di quel mattino a Tolosa, così fosco e serale, che sembrava non volesse aprirsi ma chiudersi con ostinazione verso una notte diurna e infinita, proprio come aveva fatto Tim. Pazienza. Pazienza, pensavo, in fondo si trattava soltanto di una sola settimana. Sarebbe passata anche quella, come ne passano e ne erano passate tante altre, forse anche di peggiori. Ritornato in hotel, Tim mi era già svanito dai pensieri. Non sapevo nemmeno se risalire in camera o rimanere ancora giù. Era piuttosto presto. Avvertivo ancora il tintinnio degli ultimi cristalli delle colazioni, dalla sala da pranzo, accesa a giorno contro il cielo più cupo di Toulouse, che vinceva l'estasi della hall. Quell'eleganza inconfondibile, così particolare dei francesi più puri, degli ospiti stranieri, composti e alteri, anche nelle piccole sfumature di provincia, l'incanto femminile delle voci più basse, dei carré scolpiti a perfezione sulla mutevolezza dei visi, i giochi di luci e di tenebra, dagli specchi a parete, gli sguardi cool, di quel romanticismo sazio e scolorito, appena dal tempo, alternate a rinsaldare la linea dolce del trucco, esercitato nell'ombra e quasi di Frodo, o quando le ciglia diventavano ancora più ampie e invidiabili, da infervorare qualsiasi sguardo umano prossimo e anche più lontano, nella schiusa perfetta del mascara, a volte per lo scorgere in quell'aria sottile da cinema, e appena un po' trasandata e ansiosa, nella fretta di attraversarmi, se così disinvolta, e donando ancora più eleganza alla tecnica di trafittura, nello sfaldarsi la capigliatura con l'impatto del vento, sul fuso dei corpi migliori e meno sfatti, ancora gonfi di occhi dalle strade. Da questionare veloce di studenti giovanissimi, in ansiosa libertà dalle loro prime lezioni. E dopo l'apertura delle porte a vetri si accendevano gli ultimi occhi a mandorla, come se sfiniti e aggravati dai troppi sguardi incontrati dagli ombrelli bassi, nella pioggia snella e fitta di Francia. Lì non avrei potuto mai annoiarmi. Quei luoghi di passaggio erano ancora troppo vari e simultanee quelle apparizioni in sequenze così vicine e così diverse le une dalle altre, da non lasciare il tempo di abituarsi, ma solo di perdersi. Pochi nuclei familiari, così rari quelli tradizionali e quindi meno seducenti. Tutte le creature dell'acquario erano sventrate da ruoli precisi e precostituiti nelle relazioni ufficiali, con nessi gerarchici, strutture verticali e rigide. Il tutto rimaneva sempre molto più moderno e stimolante, in un affresco generoso e schioccante di pop art. Forse per il rintocco di fertile solitudine nelle donne di una certa Europa, perché svincolate da responsabilità o da privazioni, presagi cattivi e sottomissione a cani infernali e dispotici, che gestissero con ferocia il loro tempo di vita concesso a schioccate sibilanti di frusta o di cinghie, sfilate dai passanti come bisce d'acqua. Forse laureando in trasferta, sgualdrine di lusso, giovani arredatrici, vetriniste, datilografe. Immaginate il mistero nel flusso delle figure sfarzose e sfuggenti, ma con la possibilità di intrattenersi quell'istante di più. Era forse la fase più nutriente quanto inquietante delle mie lunghe soste sulle poltrone basse dell'hotel, puntando la fiamma variegata di nuovi visi, come un cane da caccia alla sua alba di sangue. Ciascuna figura umana a volte pareva immersa dentro lo stesso specchio scuro e profondo, i loro passaggi di seta nella luna opaca e operaia della sera, quando a volte sfocava dall'ingresso da lunghi vetri azzurri, annunciata da una corrente d'aria o da una ventata nobile di profumo fruttato, che mi faceva voltare di scatto e cascare a terra la rivista. Quando lasciavano le chiavi e mi sfioravano della loro fretta o della loro eccessiva odorosa indolenza, blindate in un anonimato superiore ancora proibito ai miei occhi, scivolando fin dentro i fondali delle loro stanze, dove avrebbero cambiato pelle, linea di sguardo e di respiro, forma dei visi o del cuore. Lasciandomi ancora da solo, nelle penombre piovose di quella strana città, dal cielo sempre più coperto e senza un tempo, che a volte pareva inghiottirmi o proteggermi nel suo maglio. Ero a digiuno di grandi introspezioni. Le mie non erano sufficientemente sofisticate per resistere a un percorso così uniforme di apnea. dovevano accennare a un attacco per poi dissolversi nello stimolo all'immaginario, che il viavai della clientela mi alimentava a sprazzi tenebrosi. Forse perché non avevo mai avuto il tempo di dedicarmi con cura a un tipo di percorso introspettivo più maturo, degno di poter reggere uno scambio vocale con un qualsiasi nuovo interlocutore, come poteva essere Tim, la quale molto spesso non sapevo nemmeno che cosa dire, come non sai che dire a qualcuno che non può essere una tua preda, e che ti ha scambiato per un altro, e che continua ancora a parlarti all'infinito come se fossi ancora quello sbagliato. Mi sentivo nel lato spazioso di un grande aeroporto internazionale. Dovevo imparare a misurare quei frammenti di sguardi masticati, appena luccicanti, come se esplosi di lacrime e di luci, mischiate insieme la sera, come se fossero l'annuncio di qualcos'altro, ancora in preparazione o celato, impauriti nella loro sensazione di dissolvenza, che era quella che gli comunicava il mio sguardo. Ma in fondo non ero mai nascosto a sufficienza. Ma in compenso la mia corporeità non era mai stata così invasiva ai miei occhi quanto la loro ai miei, trasformandoli da semplici clienti d'hotel in quelle stesse entità spettrali e palpitanti che adesso interpretavo e che vedevo come stralci di divinità pagane e oscure trascendenze, alle quali rimanevo sottomesso e rapito contro la mia stessa volontà. Ormai mi sentivo radicato lì, a tal punto da dimenticare la band del piccolo talentuoso Shutterbox Team, la sua grande carica di sragionato e crescente affetto verso di me, gli assoli scarichi e misteriosi della sua tromba afflitta in teatro, il fatto che dopo circa 5 giorni sarei dovuto ritornare insieme a loro nella nostra dolce e malinconica Italia. I primi giorni quindi non esisteva la band, e nemmeno il mio bus, e quindi nemmeno l'autista che ero e il motivo che mi aveva sospinto lì. Avrei preferito lasciarli tutti fino al giorno della partenza e fare il cambio di maggiore intimità e confidenza con qualche nuova presenza. Una di quelle che attraversava la reception sotto i miei occhi, una di quelle che solcava nel silenzio i primi gradini durante il mio studioso passaggio. In quegli istanti esistevano solo le mie reazioni e i miei riflessi contro l'inganno di quei visi affrettati, dove si divertiva e si espandeva il mio unico possibile interesse. Io non riuscivo a provare interesse o a produrre amicizia con nessuna creatura troppo nota e legittima, e neanche subirla. Rimanevo impiantato in quella sobria disponibilità di attesa, quando i clienti sganciavano con la chiave il sorriso automatico del portiere e poi sgusciavano via, appena visti, sfiorati e poi spariti al loro primo impatto colpevole, che bruciavano come corteccia di legna nei miei occhi ben desti. Ero appena diventato l'autista di un nuovo mezzo, e forse stavo appena imparando a guidare e a controllare nelle prime curve, anche senza conoscere a sufficienza le sue dinamiche di cambio, i suoi consumi precisi, le sue caratteristiche tecniche, la durata e l'usura delle gomme, accendendo appena i mezzi fari nella prima sera, senza l'uso degli occhi e delle mani.